una domanda. Se potete cantarci qualche canzone che si cantava di solito, se ve la ricordate. Ma una volta le persone cantavano di più, sai, da adesso? Erano molto più, anche le donne, specialmente le casalinghe, che erano quasi tutte casalinghe. Quando facevano i lavori di casa o che andavano a lavare al lavatoio, che facevano, le sentivi sempre cantare. Adesso non senti più cantare nessuno, non so perché. Si vede che sono tutti più Sentivi le arrabbiati. canzoni? Il mazzo lì dei fiori, che ne era del Quel canzone. mazzo lì dei fiori che viene dalla montagna.